porta come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi. Mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire. E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, tu credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre. E anche quando avremo troppe cose da cambiare, tu credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre. L'amore va, impone, frattura, frappone, un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza e pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone. Ti chiude, ti inchioda, ti incute terrore, ti scuoia, ti sazia, ti spoglia, ti stende, ti sprona, ti sforma, ti dona l'amore, una corda, tu tira la forte prega, che tieni la presa, ti cade e fa tanto rumore, un buco per terra. E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, l'amore va, l'amore va. Credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre. Cammina in mezzo alle persone. E anche quando avremo troppe cose da cambiare, lui se ne va, lui se ne va. Credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre. Oh. Quando me ne starò fermo, mentre voglia di ballare. Quando tutto cambia senso e non ha senso più aspettare. E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, tu credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre. Perché parlo di te da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, sì, io parlo di te, ecco parlo di te. Anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, ah, ah, tu credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre. Anche quando avremo troppe cose da cambiare, ah, ah, tu credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre. Tu credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre.